A bordo campo di Dario Ricci. Box a Milano, Ignis, Olimpia, Cinzano. Oggi a bordo campo si trasferisce a bordo ring, perché siamo qui a Milano nella palestra dei Dolce Gabbana Thunder Milano di box. A fianco a me un campione, 28 anni, un mondiale dei pesi massimi dilettanti, un argento olimpico, in carriera anche un reality, un film e poi un tatuaggio sul petto con un bufalo, con i guantoni pronto a caricare. Insomma, avete capito, è Clemente Russo, per tutti però Tatanka. Benvenuto a bordo campo, Clemente. Buongiorno a tutti o buon pomeriggio. Due errori hai fatto. Prima un salutone a tutti i radioascoltatori. Ma hai fatto due errori. Uno è un bisonte e non è un bufalo. E due è sul dorsale e non sul petto. Ah, caspita, ho sbagliato tutto allora. Allora, Clemente, spiegaci subito da dove nasce questo soprannome, Tatanka. Ma Tatanka era un po' il mio stile, il mio modo di far pugilato. Io quando ero più piccolo caricavo sempre a testa bassa, ero un po' grezzo tecnicamente, no? Poi mi sono allucidito nel tempo e con l'esperienza del pugilato. E un maestro, Angelo Musone, nonché bronzo olimpico a Los Angeles, mi mise questo soprannome perché, tratto dal film Balla coi lupi, quando Kevin Costner vide i bisonti andò a parlare col capo indiano e loro li chiamavano Tatanka, quindi come linguaggio Sioux mi è rimasto Tatanka e me lo sono fatto anche tatuare. Beh, insomma, come avete capito, con Clemente si può parlare un po' di tutto, perché al cinema, e adesso poi ci arriveremo, visto proprio l'esperienza che cui hai partecipato, ma per il momento rimaniamo sul ring. World Series di Boxing, prima esperienza in questo senso, per voi pugili che arrivate dal dilettantismo, sicuramente la box è quella, però si entra anche in un mondo nuovo, fatto di 5 riprese, di una box senza il caschetto. Dal punto di vista tecnico, soprattutto per un massimo come te, cosa cambia? Ma sicuramente cambia tutto. Dice, io ho sempre detto fin da piccolo, il professionismo è un altro sport, non è il pugilato, perché comunque partendo dalle regole, partendo dalla metodologia di allenamento, partendo dall'impostazione della gara, è tutto un altro sport. L'unica cosa che c'è in comune, che ci accomuna, diciamo, il pugilato dilettantistico, quello olimpico con quello professionistico, sono i pugni, e quindi è ben poco. Però noi, con la nostra esperienza, visto che questa squadra è fatta di pugili veramente tanto esperti, con circa 200 match a testa da dilettanti all'attivo, siamo capaci di, con un po' di tempo, non subito, adattarci a questo pugilato, però da non perdere di vista il pugilato olimpico, perché quello che voglio dire è che con questa nuova sigla WSB ci concede anche di ritornare a fare il dilettante, quindi il mondiale dilettante, che è valevole come qualificazione olimpica. E se ci si qualifica, casomai un'alta probabile Olimpiadi. Anche perché, guardando gli albi d'oro, ha un pugile di Marcianise, manca ancora l'oro olimpico, quindi sarebbe ora di colmarlo questo vuoto. Beh, siamo partiti dal bronzo di Angelo Musone, siamo passati all'argento mio, e speriamo che qualcuno di noi, anche i giovani, gli astri nascenti delle palestre di Marcianise, possano portare una medaglia d'oro. Però piano piano ci riusciremo. Marcianise, provincia di Caserta, è il cuore del pugilato italiano. Ci spieghi perché? Da dove nasce questo segreto? Beh, mi sa che forse abbiamo terreno fertile al pugilato, non solo l'immondizia, ecco, come ci infangono televisivamente, perché ci sono tante parti belle di Marcianise. C'è da dire che è una piccola cittadina di 41.000 abitanti con ben 3 società di pugilato, dove queste 3 società fanno praticare questo sport totalmente gratis. Quindi ecco, un bambino, anche specie nel mio caso quando ero piccolo, anche per un po' di difficoltà economica, ma non per difficoltà economica, anche io, perché cambiamo sempre idea dal calcio al ciclismo, dalla pallavolo al pugilato, quindi mia mamma non mi voleva dare più i soldini per andarmi a iscrivere a qualche parte, sono andato al pugilato per dimagrire. era del tutto gratis e poi mi sono appassionato e ci sono rimasto. È un po' la storia di tutti i ragazzi di Marcianise che praticano questo sport, si avvicinano al pugilato un po' per gli amici, un po' per i parenti, i familiari, e anche perché sono palestre gratis e si fa veramente tutto per il sociale. A Marcianise, come in molti luoghi della campagna, come ci ha raccontato un altro pugile ma scrittore, Roberto Saviano, che è tuo amico, si combatte sul ring ma anche a bordo ring, no? Quello che i ragazzi combattono fin da piccoli è un bivio, si sta a un bivio tra la strada e quindi le tentazioni della malavita e la palestra. Come si fa a scegliere la strada giusta, Clemente? Ma io credo che devi nascere sotto una buona stella, perché comunque è anche un fattore caratteriale, non è un fattore che è ampiamente, diciamo, solo al sud, diciamo, espresso, ma bensì anche al nord, perché ecco, al sud c'è la camorra, c'è la mafia, ma al nord c'è comunque, ci sono tanti tipi di droghe dove i ragazzi vengono, ecco, allontanati a volte dalle buone amicizie, trasferendosi nelle cattive. Quindi è un po' un fenomeno di tutto il mondo questo. Però ecco, chi ha amore e passione, oppure chi veramente viene colpito da questo sport, con la sua buona volontà se ne può uscire tranquillamente, perché l'impegno che ti chiede il pugilato da mattina a sera per 2-3 allenamenti al giorno, compreso, diciamo, il riposo, qualcuno a volte va come me, da piccolino ho studiato anche, diciamo, tra i due allenamenti ne facevo uno prima di andare a scuola alle 6 del mattino e uno al pomeriggio, arrivi la sera che alle 9 vuoi vedere solo il letto, quindi non c'è nemmeno il tempo di andare in strada e fare il pip. E senti, hai voluto raccontare questa tua parabola, no? Anche sul grande schermo, in questo film Tatanka Scatenato, che trae spunto proprio da un articolo che Roberto Saviano dedicò a voi campioni del pugilato di Marcianise alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino. Ecco, come è nata questa esperienza e come ti sei trovato da pugile protagonista, però in questo caso anche nel doppio ruolo di attore? Ma il racconto nasce scritto da Roberto sull'Espresso, quando poi l'ha tramutato in un capitolo delle bellezze dell'inferno, il suo secondo libro, in un'intervista che ci fece sia a me e all'altro pugile di Marcianise, Domenico Valentino, campione del mondo anche lui, e lui non spiegava realmente la nostra vita, la nostra storia, ma bensì la storia di tanti pugili di quel territorio, della Marcianise. E al che un produttore lesse questo articolo, che gli è piaciuto tanto, e decise di scrivere una sceneggiatura, ecco, del tutto romanzata, su questo articolo. Mi chiamò, me la fece leggere, mi piacque e diedi disponibilità, guardando il programma di allenamento e di gare per il periodo del girato, che erano 2 mesi, ho dato disponibilità. E qual è la morale che rimane da questa esperienza per te, e soprattutto quella che il film vuole poi portare? Sicuramente il riscatto sociale, perché da una terra così brutta fa vedere quando si è forti nel proprio interiore, te ne esci anche se sei avvolto tra malavita e cose più grandi di te. Con un semplice sport come il pugilato, però che ti dà tanta carica e voglia di vivere, vince il bene, diciamo, sul male. Per fortuna, diciamo, hai fatto anche televisione in modo più leggero, no? Ti ricordiamo anche protagonista della Talpa, del reality, uno dei reality più conosciuti. Credi che queste formule, queste partecipazioni siano essenziali ormai per il pugilato, per meritare la giusta visibilità mediatica? Noi facciamo parte di uno sport minore, per non dire uno sport povero. È uno sport minore confronto al calcio e confronto a tanti altri sport, no? E noi dobbiamo aspettare ogni 4 anni alle Olimpiadi, devi sperare di fare bene per far parlare un po' del pugilato. Tante persone la vedono una cattiva cosa, che un pugile oppure un atleta di secondo livello, chiamiamolo così, di uno sport minore, possa andare in televisione. Ma io quello che voglio dire a questa gente è che io non vado in televisione per farmi conoscere o perché mi piace il reality, io veramente vado in televisione per promuovere il nostro sport, che da anni c'ha un luogo comune che dobbiamo cancellare, quello di essere uno sport violento. Quindi vogliamo far capire alle persone, ecco, con me in primis, che è uno sport bello, uno sport pulito, uno sport che ti formi, uno sport che è tutto educativo. Guardiamo la mia faccia, non è tanto segnata, guardiamo il mio carattere, non è del tanto violento. Quindi ecco, trasmettere alle persone e quindi invogliare tanti bambini ad andare in palestra. E beh, insomma, non a caso è la nobile arte, no? È la nobile arte, però, che comunque viene dimenticata un po' per i detti che si raccontano, le dicerie paesane che ti rompono il naso quando entri in palestra. Anche a me avevano detto una cosa del genere, però forse, ecco, il tatanka che era in me non se ne è fregato all'epoca, poi si aspettava un giorno che veniva rotto suonato, ma suo naso è ancora bello intatto dopo 200 incontri. Ah, quindi questo che vediamo è quello originale. Quello originalissimo. C'è anche una piccola deviazione, ma si deve notare però. A bordo campo. Box a Milano. Secondo round di A Bordo Campo, oggi completamente dedicato al pugilato. E allora torniamo nella palestra dei Dolce Gabbana Thunder Milano a chiacchierare con Clemente Russo. Sopracciglia, lampo, fotografo, abbaglio. Torniamo ai temi dell'impegno, no? Sei sposato con Laura Maddaloni, altra famiglia di grandi sportivi, e Pino con tutta la famiglia è impegnato a portare a Scampia, uno dei quartieri più difficili di Napoli, il verbo del judo e insieme allo sport anche il verbo del riscatto sociale. Da questo punto di vista, Clemente, a che punto siamo? Basta lo sport per lanciare questo messaggio o vi sentite in qualche modo abbandonati, lasciati soli dalle istituzioni? Io credo che non basta lo sport, non basta nemmeno la luna se la potessimo portare sulla terra. Io penso che bastasse un minimo di impegno di qualche istituzione, perché il lavoro che sta facendo mio suocero è nella Scampia. C'è una persona, Giovanni Maddaloni, 52 anni, che di sua spontanea volontà mette gratis la palestra nel centro, nel cuore delle vele di Scampia. Mette una palestra del tutto gratis con 700-800 iscritti, prende sotto sua responsabilità dal carcere minorile sia dei Colli Aminei che di Ariole in provincia di Benevento, prende ragazzini con una piccola quota settimanale che gli mette in tasca per far pulire la palestra e gli fa fare sport, e sotto la sua tutela dalle 9 del mattino alle 9 di sera. E io credo che quell'uomo sta facendo tanto, ma viene poco riconosciuto. Viene poco riconosciuto, i nostri politici gli hanno promesso, ma lui è stato, gli hanno staccato anche la corrente, perché comunque non c'ha soldi per pagare queste bollette, si è messo la palestra gratis e fa tutto per il sociale. Quindi io faccio un appello alle istituzioni, sia nazionali che regionali specialmente, di stare vicino alla Star Judo Club, perché veramente quell'uomo sta facendo una cosa grande, ma grande come mai nessuno ha fatto. Siete considerati i gladiatori dell'era moderna. Che effetto ti ha fatto vedere Pompei in quello stato, la scuola dei gladiatori crollata per incuria a causa del maltempo, polemiche, ma credo che a un campano faccia ancora più male. È un patrimonio italiano, ma insomma. Purtroppo, ecco, ci ritroviamo di nuovo sullo stesso tasto dolente. Voglio girare un po' il discorso sulle bellezze che ci abbiamo in Campania. Noi parliamo della Croazia come terra bella, parliamo della Sardegna, ma noi abbiamo delle zone turistiche come Marina di Camerota e tutto, diciamo, quel litorale, che sono talmente stupende, ma sono, diciamo, scarsamente gestite. Cioè sono gestite male, ecco, quello che è successo a Pompei è uguale. C'è bisogno della gestione, noi siamo un po' menefreghisti e dovremmo amare un po' la nostra città di più. In Tatanka Scatenato sei protagonista della storia di questo ragazzo che riesce a sfuggire alle tentazioni della malavita, no? Ma anche un campione come Clemente Russo può essere ancora oggetto delle attenzioni della camorra? Ti sei mai sentito nel mirino, appetito dalla camorra che magari potrebbe voler mettere il cappello sui tuoi successi, sulle tue borse, sulle tue vincite? Oppure a un certo punto il nome e quello che riesci a ottenere sul ring è più forte anche di questo rischio? No, non ho mai pensato una cosa del genere. E non è mai accaduto una cosa del genere, tra cui adesso a Marcianise si sta vivendo molto, ma molto meglio degli anni passati, e sia la Guardia di Finanza che la Polizia sta facendo un ottimo lavoro, però adesso è quasi diventata una Marcianise pulita e non più quella dei tempi, diciamo, di 10 anni e indietro. Senti, dicevamo Olimpiadi di Londra 2012 come grande obiettivo della carriera, a quel punto però ci sarà anche la box femminile, no? Ci saranno anche delle azzurre che competeranno per l'oro. Come valuti questa introduzione del pugilato femminile nel programma olimpico? Bah, sicuramente è una cosa che fa piacere al mondo del pugilato, perché comunque allarghiamo il nostro ingresso a questo sport olimpico, quindi abbiamo probabilità di vincere ancora più medaglie, cioè abbiamo tre categorie in più. Prima ne erano 10 di 11, adesso ne sono 13, quindi possono partecipare anche tre ragazze, quindi a portare a sostenere la nostra squadra e a fortificare la nostra squadra. Sì, è vero, ho detto sempre sui giornali e in altre interviste che il pugilato non lo vedo uno sport femminile, non è che mi piace tanto, però lo dico che, nel senso che a me personalmente non piace, però che avvengano 3 milioni di iscritte femminili come siamo noi maschi, cioè sono contento per la federazione, anche se io ho un mio principio personale, anzi se posso dare dei consigli a delle ragazze glieli do anche, però non significa che io non amo lo sport femminile. Anche perché occhio che qualche gancio destro arriva d'improvviso e ti mette KO magari una donzella che gira qui in palestra. Bah, sarà un po' difficile perché sono molto sveglio, c'ho l'occhio molto sveglio sul ring e quando, specie quando vedo i pugni volare, quindi è difficile, potrebbe capitare, però stiamo sempre attenti. Senti, questa esperienza dei Dolce Gabbana Thunder Milano è anche bella perché un po' trasferisce un pezzo di sud al nord, no? In questo periodo che ci sono un sacco di polemiche, Lega Nord contro Napoli, Napoli contro Lega Nord, credo che sia anche a voi sportivi vi tocca fare anche da cemento di un'unità nazionale che qualcuno invece dal punto di vista politico mina. Ma io, guarda, io sul fattore politico veramente non ci vorrei mettere mai mano perché Non è mio campo. Io veramente lotto, tiro pugni e lo faccio veramente per me, per la mia famiglia e per l'Italia intera, perché il mio successo sono il successo anche delle altre persone. Però basta il napoletano, il sudista, il terrone, basta, perché se devo pensare che noi napoletani siamo i terroni, allora tu bresciano, tu milanese sei il terrone dell'Austria, non è quello il discorso. Siamo una sola nazione, siamo, vogliamoci bene e mettiamo fine a queste polemiche. C'è un Veneto che soffre in questo periodo per le conseguenze disastrose delle alluvioni. Perché non proporre ai Dolce Gabbana Thunder Milano di fare una serata con i loro campioni sul ring e magari poi devolvere l'incasso al Veneto che soffre delle conseguenze dell'alluvione? Può essere un'idea? Ma può essere una bellissima idea. Io ho sempre fatto tanta beneficenza, mi sono sempre prestato alle iniziative di beneficenza riguardando il terremoto dell'Aquila, l'alluvione che è successa l'anno scorso in Sicilia, quindi sarei vicino a questa cosa, però io posso dire facciamolo, ma non tocca a me deciderla. Però insomma, disponibilità c'è, pronto a mettersi i guantoni? Massimo al 100%. Ti chiedo ancora un'ultima cosa, ti lasciamo agli allenamenti perché ormai incombono le gare ufficiali, ma senti, questo Saviano come pugile, com'è? Gli diamo qualche consiglio perché come scrittore anche della vostra parabola non si discute, ma mi ha detto Mirko Valentino per esempio che come pugile non è che sia granché. Ma guardandolo fisicamente, diciamo, ecco, lascio un po' a desiderare, però deve mettere qualche chiletto di massa in più e poi ne possiamo riparlare. Un'ultima battuta con Clemente Russo, i tuoi prossimi obiettivi sul ring e soprattutto fuori dal ring, Clemente? Beh, sul ring abbiamo questo progetto che non è un progetto, è un ciclone e finirà a maggio, se tutto va bene arriviamo in finale, altrimenti finirà ad aprile. Speriamo bene che la squadra risponda bene, questo è un grande progettone. Sperando di vincere questa qualificazione olimpica vincendo le World Series e poi ci sono subito le Olimpiadi. E vogliamo che le persone ci devono stare veramente tanto vicino, perché ecco, il pugilato è in ascesa, però vogliamo il sostegno delle persone. E fuori dal ring, che Clemente Russo dobbiamo aspettarci? Perché le iniziative, come ci hai detto, non mancano. Su quali saranno proprio gli obiettivi su cui ti concentrerai? C'è il film in uscita, quindi, da Danca scatenato a febbraio, candidato al Festival di Berlino, speriamo ce ne possiamo tornare da Berlino con qualche bel premio, con un bel orsetto. E poi tra poco comincerà sia la promozione di questo Thunder Milano che del film Tatanka Scatenato. Bene, allora in bocca al lupo sia sul ring sia a bordo ring. Ti aspettiamo al prossimo match, Clemente Russo. Grazie mille, crepi il lupo, e voi aspettateci, ma sosteneteci. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle 14.30, e il sabato mattina in replica alle ore 6.30. Un saluto da Dario Ricci.